Abbiamo utilizzato modelli animali di epatite cronica virale per validare una scoperta precedente, cioè quanto le piastrine fossero coinvolte nel danno epatico associato a epatite virale, per prevenire questo danno nel tempo appunto con dei farmaci antipiastrinici. E quindi la somministrazione quotidiana e prolungata di questi farmaci piastrinici a basse dosi è in grado nel tempo a prevenire quella che è la peggiore delle complicanze associate a questa infezione virale, cioè il tumore del fegato. Si tratta di farmaci generici già approvati per il trattamento di disordini trombotici. Assolutamente sì, e questo speriamo che acceleri la possibilità poi di portare questa sperimentazione, che ribadisco ad oggi è ancora in ambito animale, in ambito clinico, cioè direttamente sul paziente.